508. Baccalà dolceforte. Cuocetelo come il baccalà numero 506, meno l'aglio, e quando sarà rosolato da ambe le parti, versateci su il dolceforte, fatelo bollire ancora un poco e servitelo caldo. Il dolceforte, o l'agrodolce se così vi piace chiamarlo, preparatelo avanti in un bicchiere e se il baccalà fosse grammi 500 all'incirca, basteranno un dito di aceto forte, due dita di acqua, zucchero a sufficienza, pinoli e uva passolina in proporzione. Prima di versarlo sul baccalà, non è male il farlo alquanto bollire a parte. Se vi viene bene, sentirete che nel suo genere sarà gradito. 509. Baccalà in gratella. Onde riesca meno risecchito, si può cuocere a fuoco lento. Sopra un foglio di carta bianca, consistente, unta avanti. Conditelo con olio, pepe e, se vi piace, qualche ciocchettina di ramerino.